questo è Radio 24 che trasmette la passione. Ogni Fox 24 come il calcio di un pallone. Siamo tutti convocati in quest'Italia. Scrivi Radio 24 sulla tua maglia. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Se può rispondere su questa possibilità che lei possa andare via prima del previsto? Secondo lei rispondo o non rispondo? Io dovevo fargliela questa domanda. Come dice mio amico caro Gigi Marzullo, se ho fatto la domanda si dia lei la risposta. Il Milan è nato prima di noi, continuerà dopo di noi. Io ho sempre pensato che presidenti, dirigenti, allenatori, giocatori portano il testimone per un certo numero di anni. Il Milan è nato nel 1899 e spero che non finisca mai. This is the end. Beautiful friend, this is the end, my only friend, the end of our elaborate plan. Allora, credo non ci sia posto migliore di questo forum agenti oggi, perché ne abbiamo uno bravo da piazzare. Galliani Adriano, nato a Monza 30 luglio 44, titolo di studio non meglio precisato, dottore, disponibile da oggi. Dimissioni, mi dimetto per giusta causa dopo l'Ajax. Oggi ha fatto un'entrata qui da Alberto Sordi, Pierluigi Pardo. Eccoci. Ah, mamma mia, bellissimo. Fra l'altro c'è una platea straordinaria che andrà avanti fino a stasera. Vedi come battono le mani, quanto entusiasmo, come si scalda la piazza. Anzi. Poi ci sarà Cruciani, Parenzo, la Zanzara. Pensa, ma intanto c'è il signor Sorrentino, cioè, di Repubblica, che ci ha raggiunto. Andrea, ciao a tutti. Sorrentino, che ringrazio e che è stato travolto. Ah, c'è l'applauso vero, piccoli fans. Applauso vero anche per no, ma anche abbiamo un microfono che facciamo scorrere, oltre che gli ascoltatori sempre convocati, 800 24 00 24, numero verde, messaggi, insulti compresi, 349 238 6666. Microfono aperto, ecco che arriva, ecco che arriva, microfono scatenata, molto bene. Allora, benvenuta. Diamo sulla notizia del giorno. No, la notizia del giorno è clamorosa, sembra quasi che sapevano in qualche modo che questo sarebbe stato un grande pomeriggio a tutti i convocati e volevano darci un tema caldo, forse è il giorno... Il migliore degli agenti sul mercato. No, ma a parte il migliore degli agenti sul mercato, rappresentanti. 28 anni di storia che finiscono così rapidamente e devo dire anche con delle scintille, perché poi fra le postille di quello che abbiamo scoperto in queste ore... c'è comunque un contenzioso col Milan che si sta per aprire, insomma è un addio molto diverso da quello che si poteva immaginare. Per la cronaca se n'è andato sbattendo la porta Galliani, perché ha detto: ho subito un grave danno personale, non è così che si opera il ricambio generazionale, va bene, ma ci voleva maggiore eleganza, quindi dopo l'Ajax lascio per giusta causa, appunto grave danno alla mia reputazione eccetera eccetera. Stamattina ha alzato il telefono, ha chiamato l'ANSA e ha rilasciato queste dichiarazioni. La tua idea, Andrea Sorrentino? La mia idea è che stia venendo giù un sistema, lentamente. Tutto compreso. Lentamente, il pacchetto comprende tutti. È stata una settimana del resto abbastanza emblematica anche in campi diversi dallo sport. Tu vedi una correlazione? Beh, comunque stanno cambiando delle cose velocemente, o comunque si stanno modificando sotto i nostri occhi. E l'addio di Galliani fa seguito a quello di Berlusconi dalla carica di senatore. Sta cambiando un po' tutto il sistema Berlusconi nel suo complesso, e parlo della politica, parlo dell'economia e parlo dello sport. Quindi in questo momento anche Galliani fa parte di questo sistema che in qualche modo, non so se stia cedendo il passo, ma sta comunque modificandosi per qualcosa che ancora non conosciamo. Di sicuro Galliani va via dal Milan perché lo vuole Berlusconi, perché Berlusconi è il presidente del Milan, proprietario. Quindi, e Barbara Berlusconi... Berlusconi ha parlato per suo padre? Beh, no, Barbara Berlusconi, che è il motivo dell'addio di Galliani dal Milan... Quindi, secondo me ha tutte le ragioni, perché i modi non sono questi. Esatto, no, ma al di là poi dei modi e delle opinioni. Barbara Berlusconi è il motivo per cui Galliani va via dal Milan... E Barbara Berlusconi non è una passata di qui per caso, ma è la figlia del proprietario, il quale evidentemente ha facilitato o permesso che queste cose avvenissero. Sì, perché in realtà quindi, l'incontro c'è stato, l'incontro famoso di una decina di anni fa. Ma al di là degli incontri, per quelli ufficiali, anche per i fotografi, per i giornalisti, al di là degli incontri che noi possiamo vedere, c'è evidentemente una situazione all'interno del Milan che Berlusconi ha deciso debba cambiare. e magari cambia attraverso sua figlia. Io non riesco però a pensare ancora adesso a un Milan che da domani perde Galliani, perde il sistema Galliani, perché Galliani porta con sé tutto un sistema di operazioni sul calciomercato, in Lega Calcio, insomma tutto quello che conosciamo. Non riesco a pensare a un Milan senza Galliani e con Barbara Berlusconi e basta. Io credo sarà che... una squadra. Interrompo un attimo. Non è vacanza, sai cosa c'è adesso? Non è che perché siamo in esterna non c'è. Va bene, allora traffico. Tutti convocati. 24orecloud.it, lo store di applicazioni professionali del gruppo 24 ore. Vi presenta Strade in diretta. Buon pomeriggio, attenzione sull'Autosole, si è appena verificato un incidente in galleria, sono già segnalate code in direzione di Firenze tra Ronco Bilaccio e Barberino di Mugello. Ci spostiamo sulla 12 Genova-Livorno, si è formata coda tra Chiavari e Lavagna in direzione Livorno per un incidente. Chiuso inoltre per questo incidente lo svincolo di Lavagna sia in entrata che in uscita in entrambe le direzioni. Per il traffico faticano a smaltirsi le code, ci sono 5 km sulla 4 Padova-Venezia, tra Roncade e San Donato di Piave in direzione di Trieste sono le conseguenze di un incidente ormai risolto. Per traffico intenso code in uscita da Milano sul tratto urbano della 4 tra la barriera di Milano di Solfa e Colmano verso Brescia, c'è traffico anche in uscita dalla capitale, code sul tratto urbano della A24 tra via Togliatti e Tor Cervara, altre code verso Roma alla barriera di Roma Est. Infine segnaliamo che in Campania è interrotta la circolazione di treni sulla linea Battipaglia-Sapri per un intervento tecnico tra le stazioni di Celle e Pisciotta. È tutto, torniamo tra mezz'ora. Tutti convocati. Galliani è stato sicuramente la persona più importante, perché Galliani non è solamente un dirigente, è un dirigente tifoso che ama questa squadra, che è cresciuto con questa squadra, che ha fatto tantissimo per questa squadra, che ha un'esperienza che nessun dirigente al mondo può vantare come Galliani, e per cui l'assenza di Galliani certamente mancherebbe tantissimo al Milan. Adesso non so che cosa succederà, perché ogni squadra e ogni società ha le proprie idee, ma certamente a livello di esperienza Galliani non ha pari. Questo era Carlo Ancelotti quando è intervenuto qualche giorno fa in Tutti i Convocati. Ci segnalano che Balotelli col tweet "This is the end" sapeva tutto, ed è vero, perché quello che ho pensato io esattamente... dire sciocchezza. No, quello che ho pensato oggi, no l'altro giorno no, ma quando oggi poi Galliani ha detto "This is the end", ho detto, hai visto, non era un wrestler, ed è anche possibile che sapesse. Allora, Andrea Sorrentino, non lo potete vedere, non lo potete sentire, inviato in Repubblica, ovviamente Pardo, mio inseparabile compagno di viaggio. Francesca da Milano subito. Oggi è una giornata speciale, subito Francesca da Milano, prima che interviene una signora, non succede Francesca mai. Da Milano, senza se e senza ma, ecco Francesca, prego. Pronto? Sì. Pronto, eccomi. Allora, Francesca da Milano è molto molto interista, molto contenta che Galliani abbia salutato il Milan, perché sono convintissima che si pentiranno molto pensi se va all'Inter. No, non credo proprio che lo farà, anche perché io non amo che vengano all'Inter quelli che sono stati tanti anni al Milan, come Leonardo. Io preferisco che vengano all'Inter gli interisti, non voglio milanisti nell'Inter. Però Francesca, cosa succede adesso al Milan? Chi va al posto di Galliani? Noi un'idea ce l'abbiamo. Ma io credo senz'altro un bel ragazzo, visto che c'è Barbara che comanda e... Non vorrei dire cattiveria, quindi mi fermo qua. Comunque il motivo della mia chiamata è questo. Io volevo dire che Galliani avrebbe dovuto salutare il Milan nel momento in cui, con la penna in mano, stava firmando l'acquisto di Tevez. È stato fermato all'ultimo secondo. E secondo me è iniziata lì la storia. È stata una cosa vergognosa, perché quest'uomo merita tutto il rispetto del mondo. Io al Milan non ho invidiato né Shevchenko, né Van Basten, né Kakà. Io ho invidiato Galliani. Francesca, interista e tifosa di Galliani. C'è chi dice che il primo atto di Barbara Berlusconi è stato in quel momento quello di far perdere uno scudetto al Milan con questa vabbè, storia. Ma manca la controprova, dai, adesso... Vabbè, manca la controprova, cioè è chiaro che dopo noi giudichiamo, sicuramente Tevez è stato un grande acquisto da parte della Juve... 18 mesi dopo, sicuramente Pato si è fatto molto male in quel periodo, ha continuato con i suoi infortuni, quindi poi insomma, se valutiamo quello che è successo dopo, sicuramente poteva essere un'idea intelligente, però insomma, in quel momento non era così chiaro, non penso che il 100% deve essere in difficoltà al Manchester City, non credo che il 100% degli osservatori in quel momento... Ecco, col senno di poi uno può anche dire... Sì. Il senno di prima è il problema, sì. Cioè, il problema è che adesso davvero noi possiamo parlare del prima, ma è il poi che è un'incognita assoluta. Ribadisco, da domani il Milan è senza il sistema Gagliani e con Barbara Berlusconi. Mi sembra pochino per andare avanti fino a fine stagione, ed è ancora più assurdo il fatto che tutto questo avvenga a fine novembre, cioè a stagione pienamente in corso. Ma sta succedendo qualcosa di strano. Questo è un contropiede di Gagliani, però, dai. Quello di oggi è un contropiede di Gagliani, perché ma uno che ama il Milan, che fa così, lascia tutto così all'improvviso. Evidentemente, se non c'erano le condizioni minime per poter andare avanti, insomma, uno se nella vita non ha neanche il diritto di dimettersi. Circondato di interviste, quindi... è arrivato Matteo Caccia per la cronaca. Matteo Caccia è arrivato. Poi Matteo Caccia, voi siete qui, lo faremo più tardi. La storia di oggi, Caccia, allora, quale sarà? Quale sarà? Un viaggio. Gagliani. Viaggio, una partenza, un ritorno. La storia di agente di commercio, giustamente. Certo, grandi viaggiatori. Che siamo qua per tirare le bambole. Chi meglio degli agenti di commercio per parlare dei viaggi, degli autogrill, delle locande? Senti, andiamo sul futuro. Prima di Diego da Bergamo, che è già in linea, 800240024. Poi, se qualcuno di voi vuole intervenire, così, random. Sì, sì, happy hour oggi, tutti convocati. Allora, torna Berlusconi. Allora, futuro al Milan. L'idea è questa. Davvero, perché se Gagliani molla tutto così nel bel mezzo della stagione, l'unica spiegazione logica è che Silvio prenda in mano tutto. Tra i lavori socialmente utili? Potrebbe essere un lavoro socialmente utile anche quello, almeno per i milanisti. Quindi, sai, perché io non credo, ripeto, a Barbara, Fenucci, Uva, i nomi che si fanno da domani a guidare il Milan di punto in bianco. È una cosa troppo strana. E quindi secondo me Berlusconi, libero da impegni politici per il momento, visto che magari non si va a elezioni subito, potrebbe tornare sedersi sulla scrivania del Milan per qualche tempo. Così vado a logica. Sei d'accordo? Vogliamo sentire Berlusconi dei giorni scorsi, perché magari può essere un indizio. Ce l'abbiamo? Certo ce l'abbiamo, abbiamo scritto là, ve li sentiamo. Tra queste alternative anche lobby che mi perseguita da molti anni, che si chiama Milan Associazione Calcio, che avrebbe, a mio giudizio, non soltanto a mio giudizio, un estremo bisogno del mio interessamento. Ecco, l'ha mi detto, sembra... no? Quindi adesso possiamo rileggere la dichiarazione di Gagliani dell'altro giorno, quel passo di Dio, poi ha detto no, non era un addio, invece lo era. Oggi su giornale si scrive 8 giorni a Milan, invece 8 ore, stamattina ha alzato il telefono e ha detto quello che ha detto. Anche in questa dichiarazione di Berlusconi, secondo me ha ragione Sorrentino, potrebbe tornare lui in prima persona, almeno in questo momento, ecco, di estremo casino, no? Sì, non so onestamente se fosse una sorta di percorso disegnato insieme o se invece non c'è stato un contropiede di Gagliani. Si disegna in questo modo, se lo disegni insieme lo disegni in questa maniera. Però c'è stato il famoso incontro di Villa San Martino, nel quale quello chiuso in maniera cinematografica, teatrale, con Berlusconi sulla porta e con Gagliani che ribadiva comunque, cosa che è successa anche oggi, ha ribadito il suo affetto nei confronti di Berlusconi, Silvio, e della assoluta volontà di conservare un ottimo rapporto con lui. Evidentemente io penso che quello di oggi sia stato un contropiede, cioè non penso che ci sia stata in quella circostanza la decisione di chiuderla subito. In quella circostanza forse si è capito che sarebbe stata l'ultima stagione per Gagliani al Milan, però la mia sensazione è che poi dopo la situazione sia precipitata. È precipitata anche perché negli ultimi giorni abbiamo visto, ad esempio, risulta, perché Gagliani l'ha confidato in mattinata, dei titoli dopo il Celtic, la prima vittoria di Barbara, mentre poi magari le sconfitte erano di Gagliani, sai, sono tutte situazioni che a Gagliani si vince, non si sono perde piaciute 11, affatto, e quindi ha capito che era il momento di mollare. Certo che a Milano rivoluzione d'autunno, più dolce, più autunnale se vogliamo per l'Inter, e domenica c'è Toir che è arrivato, non so se viene qui, non credo. Se passa di qui lo ospitiamo. Marco d'Alessandria ci dice che il sole sorge e tramonta per tutti, tutta una fine, bene, momenti filosofici. Siamo all'alta poesia. Invece è già pronto Leonardo al posto di Gagliani. No, non torna Leonardo a Milano. Confermi Sorrentino, ha detto che non torna a Milano. Ma non potrebbe, perché ha sbattuto la porta, ha litigato ferocemente con Berlusconi, sarebbe abbastanza strano. Anche se io da Leonardo cioè Leonardo è imprevedibile, ecco, mettiamola così, potrebbe fare qualsiasi cosa, anche ritornare nelle grazie di Berlusconi. Lingua biforcuta Leonardo. No, vabbè, l'hai detto tu. L'hai detto tu. Tu l'hai detto, tu l'hai io detto. Dico, tu le cattiverie, guarda, funziona così, sorry. Le cattiverie dice Genta, noi ci dissociamo, sempre comunque. Il giorno che mi menano discardianamente, me ne socio da quello che hai detto poc'anzi. Me ne socio Diego da Bergamo. Assume la tua responsabilità. Diego da Bergamo. Salutiamo pronto? Scardone, magari ci pronto? Diego. Sì, pronto, buongiorno a tutti. Buongiorno. Grazie per avermi convocato innanzitutto. Sì, dica. Allora, io volevo parlare soprattutto dell'addio di Galliani al Milan. Sì. Certamente sono d'accordo con Galliani che non è giusto essere trattati così, però volevo anche ricordare a lui, io sono juventino tra l'altro, volevo ricordare a lui come ha gestito l'addio dei senatori del Milan, i vari... Ambrosini, Costa Curta, Maldini, e anche lì mi sembra che non siano stati trattati in modo elegante. Ma al di là del caso di Maldini non mi pare, no? Al di là Maldini, del caso di Maldini, no, no, Maldini non di sicuro. Maldini così? No di sicuro. Maldini no di sicuro. Sugli ma altri, insomma, Costa Curta, Ambrosini. Anche Ambrosini poteva sicuramente essere salutato in una maniera un pochino più. Anche Pirlo e Gattuso. No, ma io credo che l'ascoltatore abbia ragione. Noi abbiamo una tendenza classica, no? Che è quella immediatamente, emotivamente, quando ci sono situazioni così dolorose, di schierarci con chi in questo momento è in difficoltà e con chi lascia. Io credo che un'analisi fredda debba essere fatta, perché degli errori sono stati commessi. Ciò non toglie che la carriera del dirigente sportivo di Galliani, questi 28 anni, è stata leggendaria. Io credo che questo non sia in discussione. Poi ovviamente ha avuto la possibilità di lavorare in un grandissimo club con grandi capitali e con una grande forza, però insomma credo che il bilancio, la sintesi definitiva di 28 anni non possa che essere positiva. Ma l'ha detto lui, il ricambio generazionale va bene, certo andava gestito con maggiore eleganza. Secondo me questo discorso non fa una piega. Allora io devo far ascoltare a tutto il mondo la borsa. E io devo andare però. Tu te ne vai. Io me ne vado, okay. Però ci sentiamo al telefono. Va bene. Perché l'ho caricato, anzi voglio ringraziare, come si chiama, Hulk, l'omino vecchio. Non mi ricordo. Come non ti ricordi? Agenti.it, no. Agenti si chiamava. L'omino di agenti.it verde, che ringrazio perché mi ha restituito il 12% di batteria. Quindi grazie veramente. Pardo, ci sentiamo dopo. Andrea Sorrentino rimane con me ancora fino alle 3. Sì, Andrea. Sì. Vi regaliamo la Traviata, che aprirà la stagione della Scala sabato 7. Alla Scala del Calcio invece domenica debutta il nuovo presidente, Andrea Sorrentino di Repubblica, qui con me. È arrivato. Parla, sta facendo una riunione di mercato con Branca, che ha un bel cappello. Poche idee ma confuse, sì. Si va da Nainggolan, che costa tanto, a Messi. Sì, ma in realtà adesso, no, vabbè, Messi ovviamente è una butade, perché ha una clausola di rescissione di 250 milioni e la scorsa estate ne sono stati rifiutati 125 dal Bayern e dal Chelsea, quindi sì. Mi sembra che per le squadre italiane sia irraggiungibile. Però l'Inter può muoversi un po' sul mercato, perché hanno accantonato un tesoretto di circa 79 milioni di euro come fondo cassa 79. Nel club. Sì, questi sono i dati dell'assemblea di qualche settimana fa. In quei 79 devi calcolare comunque una perdita al 30 giugno 2014 che è stata calcolata intorno ai 50-55 milioni, di segno meno, quindi... Comunque qualcosina l'Inter ha per fare un mercato di gennaio. Bisognerà certo vedere. Che arriva il nuovo presidente e tutti si aspettano che porti un mazzo di fiori nel soggiorno, no? Certo, quantomeno certo. Un regalino non lo vogliamo fare? E davvero secondo me l'Inter ha bisogno di un attaccante, di un centravanti, vero, in salute, giovane, anche perché uno professionista. È pensionato. Esatto. L'altro è bravo, fa... gioca con Twitter e basta, mi pare. Sì, no, ma Icardi, penosa vicenda. Icardi è uno dei casi dei casi umani dell'anno, sì. No, ma anche Belfodil, non mi sembra un Belfodil non piace fenomeno, a Mazzarri. Neanche a me, ma con questo conta poco. Neanche a me. No, allora, sentiamo Claudio da Parma che aspetta, lo ringrazio, è in linea da un po'. Buongiorno. Buongiorno, visto che mi ha convocato, mi sono scaldato di fianco alla panchina prima di entrare in campo. grande. Allora, battutina è mezzo divertissement per spostare la prospettiva di ragionamento sulla mossa di Galliani. Mi chiedo e vi chiedo, non è che il crepuscolo del signor Galliani non sia cominciato in realtà nel 2006, visto che Calciopoli per la Juve cominciò un paio di mesi dopo un incontro pseudo segreto tra Moggi e Berlusconi a Palazzo Grazioli, e dopodiché cominciò tutto, per cui non è che già allora Berlusconi pensasse di cominciare a fare qualche cambiamento al vertice, perché nessuno ha mai spiegato il perché di Moggi fosse andato a Palazzo Grazioli, sì, da Berlusconi. Però io me lo ricordo quell'episodio, Claudio, però mi sembra che siamo davvero tanto al divertimento, siamo alla fine del 2013. Sì. Mi sembra passato un po' tanto tempo per, sì, quell'incontro risale all'autunno del 2005, mi ricordo anch'io benissimo. Quindi sì. mi sembra un po' troppo retrodatato per leggere l'inizio della rottura, sì, per quell'incontro. Però è probabile che Berlusconi a Moggi avesse fatto un pensierino all'epoca, poi tutto rientrò per via di Calciopoli, dello scandalo che esplose e che toccò tangenzialmente anche Galliani, non dimentichiamolo. Ma quello che dice l'ascoltatore, secondo me, ha un fondo di verità. Sì, nel senso che Berlusconi, quando si è accorto che Galliani comunque aveva preso moltissimo potere all'interno del Milan, perché Berlusconi non poteva occuparsene, aveva cominciato a pensare a delle strategie per disinnescarlo, per neutralizzarne un po' il potere, e probabilmente Moggi poteva essere una di quelle, cioè, poi però le cose cambiarono Galliani in fretta. Galliani prendendo Moggi, no, stiamo facendo ovviamente dei discorsi fantascientifici, però devi pensare all'Italia del 2004-2005, che non è quella di adesso, con le cose che sappiamo e che sono successe. C'è anche chi dice che Moggi è stato fatto fuori dalla Juventus proprio perché aveva preso troppo potere all'interno della Juventus. Questa è una fanta teoria, non so quanto fanta, quanto E comunque reale. Dopo Calciopoli in realtà il Milan di Galliani si rilanciò alla grande, perché nell'anno dopo Calciopoli andò a vincere un'insperatissima Champions League ad Atene nel 2007, quindi poi da quel momento in poi Galliani ha riacquistato, diciamo così, potere e i favori di Berlusconi in tutto e per tutto. Ma poi è arrivata Barbara. Poi è arrivata Barbara e arriva Francesco da Pisa. Buongiorno. Buongiorno. No, aspetti, spenga la radio, la bassi, faccia qualcosa, sì, se no non lo spenta, sento. Lo spenta. Bravo. No, in poche parole io ho un'opinione, per quello che può valere, che siccome Berlusconi e quindi tutto il suo, diciamo, circondario familiare, sì, praticamente ha un impero economico, il quale è gestito a conduzione familiare, se ci fate caso. Per Silvio, la Marina. E adesso la Barbara. La Barbara che è, diciamo, la bambina viziata tutto sommato dal papà, anche se è intelligente, per carità, per cui magari ha puntato ai piedi qualche piantino, perché non dimentichiamo il caso, perché secondo me è un caso pato, che gli avevano offerto non sa quante decine di milioni il Corinthians. Qualcuno, sì. Anzi, gli avevano offerto, non il Corinthians, e alla fine lo hanno svenduto al Corinthians, sì, per quanto riguarda la love story che aveva con la Barbara. Sì, va bene, però mi sembra, mi permetto. No, può sembrare riduttivo, però. No, non riduttivo, mi sembra un po' fumettosa come lettura, cioè nel senso, sì, è vero, impero conduzione familiare, però. Galliani non è l'unico collaboratore stretto di Berlusconi, Galliani di possiamo considerarlo uno di famiglia lì da 28 anni e ha seguito una parte importante. No, amici dal 79 con Berlusconi. 79, affari insieme, non solo. Tenne la conquista dell'Etere, esatto, in tutta Italia, insomma è stata una grande avventura. Insieme e quindi però... non credo che possa essere letta in questa maniera, con la storia vogliamo tutto in famiglia eccetera eccetera, tanto più che una parte della famiglia ha sempre detto per favore vendere, che non interessava l'asset, non era, diciamo, strategico. Comunque io voglio anche dire una cosa, da anni tutti diciamo che questo è un paese che ha bisogno di rinnovarsi, di cose nuove, di cambiare, di rivisitarsi. Galliani è stato al Milan per 28, comunque 27 anni e mezzo. ci sta anche che a un certo punto, no? Ma dico, no, ma ecco, ma esatto. Andrea, sicuramente il Milan perde molto, però un domani in qualche modo sta iniziando, così come è successo all'Inter con l'addio di Moratti. Credo che anzi è Milano, le squadre milanesi che stiano dando i primi segnali di, sì, ma di cambiamento. È stata, certo, abbiamo, secondo me è positivo, prima, voglio dire. Rivoluzione d'autunno, però all'Inter è stata gestita in un'altra maniera. Quella del Milan è più traumatica. È una gelata, è la prima gelata. Sì, sì, sì, sì. Quella dell'Inter, infatti, è l'autunno, no, più dolce. Sì, sì, sì. Al Milan. E infatti siamo ghiaccio, sotto zero. Infatti siamo sotto zero. Allora è arrivato in linea il. Questa non la sapevi? Torreira ha fatto un acquisto. Ah, L'Inter sì? ha un nuovo numero 10. Ah, ecco, questa è una buona notizia. Scusate se insisto, mi chiamo Evaristo Beccalossi. Applauso del pubblico, prego. Ciao, ciao ragazzi. Ciao Beck. Buongiorno, allora, ciao. Prima sono di chiederti stato, di... Sono stato convocato, no? Certo, sei sempre convocato. Noi non siamo la nazionale italiana che ti lasciava a casa. Com'è? Tutto ma... bene, benissimo, siamo in numerose e allegra compagnia oggi. Ascolta, prima sì. di chiederti di Toir, ti chiedo di Galliani, come la vivi da interista questa vicenda così? Credo che avete centrato l'argomento nel modo giusto, tanti anni, giusto rinnovamento, però ecco, forse meritava un'uscita magari in modo diverso, andava più preparata. Perché Galliani in questi anni da dirigente ha dimostrato di essere un grande dirigente. Io sono per il cambiamento, però così ho avuto l'impressione che sia stata proprio una forzatura per fare il ribaltone. Senti, ti faccio arrabbiare e faccio il cattivo come al solito. È stata gestita in maniera un po' all'interista questa vicenda. All'Inter ne abbiamo viste tante di storie così traumatiche, di storie in cui si è detto va bene la sostanza ma la forma neanche tanto. Esatto, non ho sentito le ultime parole, che c'è stato un vuoto d'aria e è stata gestita nel modo interista. No dai, ti ripeto, io insomma, ma anche i tifosi milanisti credo che magari per il cambiamento siano favorevoli, perché è giusto lasciare spazio magari a situazioni diverse, a giovani, però secondo me, te lo ripeto, cioè così di botto non è stato bello, perché in questi anni Berlusconi e Galliani e il Milan erano una cosa sola. Allora, Evaristo Beccalossi, con Andrea Sorrentino che è qui vicino a me, si parlava anche del futuro dell'Inter e sì. Io dico, i tifosi dell'Inter un regalo se l'aspettano, dai, anello di fidanzamento o di qualcosa sì, anche perché mi risulta che ci sarà una riunione per vedere anche le strategie di mercato, nel senso che sicuramente Mazzarri sta facendo grandissime cose perché ha ereditato una squadra con mille difficoltà, però sai, quando ti avvicini al terzo posto e sai che stai facendo bene, hai rigenerato giocatori che magari l'anno scorso non erano considerati, secondo me con uno sforzino si può cercare di agganciare il terzo posto, che arrivare nei primi tre posti per la Champions League anche a livello di bilancio sai cosa voglio dire, insomma. E credo cosa serve all'Inter, Evaristo? In quale ruolo prenderesti dei giocatori? Io prima di tutto, vabbè, questa è la mia idea personale, bisogna valutare le condizioni di Milito, perché se hai Milito al top interverrei in mezzo al campo. No, Milito è un pensionato, dai. Cioè, guardiamo anche il futuro. Qua, anche qua c'era un'interferenza, non ho sentito. Non ho sentito, chissà come mai quando parlo con te disturbato. No, ti sto dicendo che vabbè, Diego, grande rispetto, però è abbastanza che mi arrivi al 90% che può essere ancora determinante. Altrimenti devo prendere anche, secondo me, andare su una punta e uno o due centrocampisti, secondo me. Due? Beh, due. Uno mi basterebbe, però l'ideale sarebbe due. Nainggolan. Firmo subito, che ora c'è l'aereo che vado a prenderlo. Però secondo me all'Inter servirebbe anche uno di quei mediani all'antica, proprio di rottura e basta, che in questo momento non c'è l'organico. No, questo mi fa piacere parlare. Guarda che Mazzari con che centrocampo sta giocando. Cambiasso ha giocato, si è inventato Alvarez nel mezzala sinistra. In un certo periodo giocava Kovacic e poi a destra c'era Jonathan e di là Nakatomo. Guarda che schieramento, tutti i giocatori, sì. Che l'unico incontrista è Cambiasso, che però deve avere vicino anche degli altri giocatori per poter chiudere, sì. E arginare gli avversari. Altro prossimo alla pensione, molto, molto ben anche pagato, qua, chiama 4 e mezzo all'anno. Quando ci sono delle parole poco gradite non sento, c'è l'interferenza che me la togli. Beh, io adesso ti saluto, sì. Ti lascio andare, anche perché domenica sei a San Siro, c'è stato questo appello di Toir che giustamente, mi sembra una grande idea questa, vuole allo stadio tutti quelli che hanno indossato la maglia dell'Inter, domenica sarete in tanti, no? Mi auguro sì, nel senso che credo che non bisogna, cioè no, mi auguro che ci sia tutti i numeri uno, perché il messaggio era sia chi ha fatto una partita, chi mille, l'importante è essere interisti. Ma come mi funziona? Perché chi ha fatto un minuto o mille minuti o che ne so, che ci siano tutti, insomma. Dicevo, vi dovete mettere una maglietta, com'è la storia? Leggevo che c'è una... Io cercavo la maglietta, però prima avevo 10, adesso devo mettere 100 e non mi piace molto. Grande Beck, grazie. Un abbraccio, buon pomeriggio. Ciao. Ciao. La prossima volta cerco una linea che funziona meglio, così mi sente. Ah, è vero, era un po'... Allora, io oggi tanto giorno delle rivoluzioni, non me ne vado di qui, non do neanche la palla a Giorgetto Telesforo che viene dopo, dopo le 15:20, se non sento delle domande dal pubblico qui presente. Quindi, se volete continuare a sentir parlare di pallone, di sport fino a notte inoltrata, state zitti e io sto qui. Tanto, che problema c'è? Andrea Sorrentino invece poi lo lascio andare perché ha da fare. Allora, altra notizia del giorno che arriva dopo la serata, ieri 149 teppisti fermati, italiani fermati a Varsavia. Perché? Perché poi. Poi qualcuno mi dice: ma te la prendi perché sono laziali? No, me la prendo perché sono dei delinquentelli. E quindi sono andati lì a fare a cazzotti con la polizia, sono stati fermati e non so come finirà. Io credo che questa possa essere addirittura l'ultima partita della Lazio in Europa per molto tempo, perché credo che ormai il livello di tolleranza dell'UEFA sia esaurito. La Lazio è stata già sanzionata in modo molto pesante anche di recente per varie storie di cori, striscioni e tutto quello che sappiamo. Come poi l'aggravante degli incidenti all'estero provocherà secondo me delle sanzioni pesanti, perché la Lazio è stata già inquadrata dall'UEFA da molto tempo. Ci sono quelli che vanno proprio sotto la curva tutte le partite della Lazio a vedere se ci sono cori o striscioni o scrittine anche in caratteri minuscoli, quindi secondo me, come si dice con un'orrenda parola, è stata attenzionata da tempo. E credo che ci saranno sanzioni pesanti dall'UEFA, come la squalifica magari dalla competizione. Ed è notizia invece di oggi che Petkovic ha raggiunto un accordo con la nazionale svizzera, firma attesa nelle prossime ore, da giugno sarà il CT della Svizzera, adesso vediamo cosa succede. Già la sua posizione, sì, senti nello svizzero. Ah, questo è lo svizzero, che solennità. Chi lo dedichiamo? A Blatter? No. È lui il cittadino più illustre della Svizzera. Un po' moscio questo signore. Sì, è un po' moscio. Mi fa impazzire. Non è una marcia neanche guerresca, perché come è noto c'è la neutralità. Da Brescia. Sì. No, Brescia, Bresso. Bresso, scrivono Brescia, Bresso, io leggo Brescia. No, ma si fa molta confusione. Bresso, provincia di Milano. Grazie per avermi chiamato, un saluto anche ai miei amici colleghi, dato che sono anch'io un agente. Molto bene. Ascolti, cioè, io sono qui in mezzo agli agenti e devo sentirne uno al telefono, perché loro non parlano, ma io ho detto, no, io vado avanti. E quindi... No, ma di solito si parla con i clienti, quindi siamo un po' resti a parlare. Con me, vabbè. Guarda, io sono di Milano, ma sono un grandissimo tifoso del Napoli. Io stravedo per Galliani, cioè per me è uno dei più grandi dirigenti in Italia, ma voglio anche esagerare al mondo. Io volevo fare una provocazione. Diamo Bigon al Milan, sì, dato che è un milanista, e ci prendiamo Galliani, perché sinceramente Galliani è, io lo vedo più mercato, come un mercato dei dirigenti. Ma Galliani ha detto che si ferma per far sbollire la rabbia, no Andrea? Quindi non accetterà proposte per adesso, per adesso. Sì, ma è probabile che magari secondo te entra in politica? Beh, potrebbe dare una mano a Berlusconi se loro pare che stiano preparando cose per quando ci saranno le elezioni, potrebbe dare il suo contributo, ma del resto davvero il suo sodalizio con Berlusconi poi è una cosa eterna, perché i due sono legatissimi. È eterna, ma se n'è andato nella maniera che magari abbiamo, ci sono cose concordate, non sappiamo, chissà. A me sembra strano che i due abbiano proprio litigato e si stiano separando. Vai a lavorare. Grazie ad Andrea Sorrentino di Repubblica, un applauso, grazie. No, prima ho parlato male di Icardi e di quella faccenda del fidanzamento su internet, Twitter, queste cose qui. Questa non è così brutta, ma va vicino. Maradona, che in tenuta da perfetto arabo, balla alla festa dell'indipendenza degli Emirati Arabi, cliccata milioni di volte su internet. Non abbiamo proprio niente da fare. Allora, torniamo qui in diretta da Forum Agenti. Vi annuncio che Matteo Caccia non andrà in onda, non andrà in onda neanche Giannino dopo e neanche Cruciani stasera, perché io sto qui perché non ho ancora avuto una domanda da parte della platea. Siete tutti convocati? Oh, neanche una domanda. Vabbè, Raffaele da Napoli, vado avanti con gli ascoltatori che mi chiamano. Grazie. Buongiorno, Raffaele. Buongiorno, la ringrazio. Guarda, io in effetti gliene faccio due argomenti, così sarei più contento. Complimenti per la tensione innanzitutto. Senta, volevo sapere, tra le due gestioni, diciamo, che si aspetta a ottenere, tra quello della Roma con Pallotta e l'eventuale, diciamo, coinvolgimento di questo cinese, e quello dell'Inter con il Torino, tra le due gestioni, quale lei vede che sia più affidabile, diciamo, a lungo andare? E poi volevo sapere sulla Formula 1, per evitare la noia che c'è stata quest'anno, che bisogna fare per evitare che sia un campionato molto più coinvolgente? Bucare le gomme di Vettel. Grazie. Lo vuole fare? Mettere lo zucchero nel serbatoio, come si faceva con i motorini da ragazzini, no? Quando si faceva dispetti da piccoli delinquentelli. Ma cosa vuole fare per fermare Vettel? Niente. È il pilota più forte. No, non è il pilota più forte, secondo me, perché quello è, resta Alonso. Certamente guida la macchina più veloce, e non c'è solo da sperare che, insomma, che anche la Red Bull arrivi a consunzione come rapporto tra Milan e Galliani, non tra Galliani e Berlusconi. Quanto a Pallotta Toir, non lo so, perché Pallotta lì da un po', la gestione degli americani esiste in vigore da un po' a Roma, quella dell'Inter deve ancora iniziare, quindi il regno di Toir di fatto deve ancora iniziare. È un po' difficile dire quale delle due prospettive sia più affidabile. È chiaro che a Roma c'è questa situazione strana, no? Anche negli ultimi giorni si è fatto un gran parlare di questo interesse del cinese per una quota azionaria della Roma, con un discreto scazzo tra Pallotta e Unicredit, quindi non so sinceramente come possa andare a finire questa vicenda. Certo è una doppia anima abbastanza strana quella romana. Allora, voglio cambiare argomento e far sentire a loro signori una grande voce che, dopo un po' di assenza, dopo qualche venerdì di assenza, torna con noi. Well, now they gave him his orders in Monroe, Virginia. They said, Steve, you're way behind time. This is not 38. This is old 97. Put her in the Spencer on time. Coach Dan Peterson, buongiorno. Ciao. Ciao coach. Ciao caro amici sportivi, buon pomeriggio a tutti. Aspetta un attimo che io sono qui in fiera a Milano, a Forum Agenti, sto facendo questa esterna, c'è il pubblico presente, ho detto che vado avanti a parlare fino a quando non sento una domanda da parte del pubblico. C'è una domanda, allora devo sentire così almeno dopo? Va bene dopo, allora parlo col coach, con coach Peterson, ok, va bene. Allora, invece a te coach, voglio far sentire una cosa, poi vi racconto questa storia, intanto sentitevi questo audio. If he gives you one on a miss, then you only need a two to tie with plenty of time to push in transition, just over 8 seconds remaining. Nets have no timeouts remaining. 8.3 on the clock. Jason Kidd and Tyshawn Taylor bumped, and there is some spillage on the floor. Taking a drink and whoa. Ice and cola. Allora, vi racconto questa storia. L'altra notte, Los Angeles, partita tra Lakers e Brooklyn, NBA naturalmente, 8 secondi e 3 alla fine, 96-94 per Los Angeles, e cioè Jason Kidd, ora allenatore dei Brooklyn Nets, ex grande giocatore, che ora è in panchina e cosa fa? Non ha più minuti di sospensione, vuole fermare il gioco per disegnare l'ultimo schema per l'ultimo pallone, e allora chiama un suo giocatore con una bibita in mano e dice hurt me, colpiscimi, si vede chiaramente il labiale. Il giocatore va lì, lo colpisce, si rovescia per terra la bibita, gli arbitri devono far asciugare il parquet, Jason Kidd disegna l'ultimo schema, poi ha perso lo stesso. Però una magata, tu non l'hai mai fatto una così, coach? No, non ho mai fatto una cosa così, ma ho letto l'articolo, ho sentito le dichiarazioni, ho visto il filmato, ovviamente ha preso anche una bella multa dell'NBA, non so, o 25.000 o 50.000 dollari, quindi ha cercato di vincere la partita con una cosa, diciamo, al limite della correttezza, e per l'NBA era oltre la linea della correttezza, e come hai detto tu, ha perso la partita lo stesso contro i Lakers, e quindi non è tornato niente, però gli ha dato la possibilità di forse poter fare qualcosa, quindi è una scelta sua, fatta ovviamente a mente fredda, perché se l'hai detto lui, come hai detto tu, con leggendo le labbra, fammi questo, cioè, vuol dire sì, che era una cosa premeditata, in poche parole. Ha detto hurt me, colpiscimi, e lui, il giocatore, ha obbedito, track, è andato lì e ha rovesciato sta bibita. Senti coach, invece, quanto alle nostre squadre, ci sono un sacco di ascoltatori, non l'ho ancora fatto, mi scuso, che mi chiedono due parole su Cantù, che sta facendo una stagione meravigliosa. Yeah, assolutamente, Cantù, non dico sorpresa, perché lì ci sono sempre dei buoni giocatori, una società veramente solidissima, e poi c'è Pino Sacripanti, che il lavoro che ha fatto lui, a parte il lavoro a Caserta l'anno scorso senza due o tre stranieri, guarda caso negli ultimi due under 20 gli europei, secondo posto e primo posto, cioè mai fatto una squadra italiana così, quindi poi Sacripanti ha votato per lui più volte nel passato come allenatore dell'anno, quindi lui non è una sorpresa, lui è una certezza, e la squadra sta facendo le grandissime cose, poi Fatendo Siena ovviamente è stato un colpo molto importante, ha avuto un passo falso, ma questo succede nell'arco di un campionato, è una squadra che un po' ha sorpreso tutti, sono lì a bussare la porta, e guai a dire di no. Se non vai a lavorare al Milan al posto di Gagliani, ci sentiamo venerdì. Stai parlando con me di questo? Eh sì, e con chi? No, se non vai al posto di Gagliani, che sei dimesso oggi, se non vai a lavorare al Milan, ci sentiamo venerdì a Radio 24. No, non vado a lavorare, però Gagliani, io non sapevo questa notizia, mi dai una cosa, è vero questo? Sì, si è dimesso oggi, sbattendo la porta, ha detto ciao, me ne vado, mi avete offeso, rinuncio alla buona uscita. Mamma mia, va bene, adesso vado sull'internet a cercare questo subito, ero qui facendo altre cose, non avevo sentito. Carlo, grazie, amici sportivi, ciao a tutti. Ciao, a presto, grazie coach Dan Peterson. Allora io voglio sentire la domanda, grazie, così almeno vado a casa, ciao. Allora, visto che adesso inizia il countdown per Allegri, sì, Barbarella dovrà trovare la soluzione al cilindro, visto che Silvio sarebbe troppo in panchina, chi vedi? Perché sarebbe troppo? Beh, non escludiamo niente. Lasciamo il dubbio che... C'è un tuo collega che sta facendo un gesto che ha reso molto famoso Mourinho, non dico quale. Allora, Barbarella deve trovare la soluzione al caso Allegri. Beh, deve trovare diverse soluzioni. Io credo che, come si diceva prima con Andrea Sorrentino, vedremo il proprietario del Milan impegnato in prima linea. È chiaro che Allegri è sempre stato sostenuto da Galliani, la sua posizione è fragilissima, è ormai esautorato di fatto da una società che peraltro non esiste più. Quindi secondo me sarà difficile vedere Allegri su quella panchina fino alla fine della stagione. Grazie a tutti, eh. Ora posso andare? Vado. Dopo arriva adesso Gigi Telesforo, poi c'è Matteo Caccia già presente, poi Oscar Giannino sempre da questo palco e poi questa sera le zanzare Cruciani e Parenzo. Vi saluto ringraziando Franco Piantanida in redazione, Roberto Scaltretti in regia, che adesso vi manda il riepilogo della settimana di tutti i convocati. Ciao. Aldo Serena, eccolo qui. Buongiorno a tutti. La partita di ieri del numero 45. Si è controllato, ha avuto anche delle provocazioni da parte dei difensori del Celtic, ma lui è riuscito anche a non cadere in quelle provocazioni. Era frenato abbastanza, la corsa era però più fluida delle settimane scorse, era più centrato, ecco, era più in partita. Però se vuoi lo chiediamo a Stefano Eragno che ci ha raggiunto. Stefano, buon pomeriggio. Ciao, buon pomeriggio. Io vorrei chiedere a Eragno se insomma lui riconosce il Milan nella polverina di queste ore. L'insieme di frasi che escono fuori, il fatto che Galliani non sarà il prossimo anno di nuovo dirigente del Milan, il fatto che comunque Allegri la sua panchina è sempre comunque bollente, il fatto che questi atteggiamenti dei giocatori non fanno certo bene all'ambiente Milan, dico il mio periodo era un periodo vincente, perciò tutto si metteva a tacere con il risultato successivo. Saluto e ringrazio Giovanni Galli. Ciao, buonasera. Credo che però Palotelli abbia delle attenuanti, ma è abbia tante responsabilità. Le responsabilità sono quelle di vestire una maglia importante e che questa maglia ha assolutamente un valore assoluto. Lui deve capire che fa parte di un club che è storico, sulla maglia c'è scritto che è il club più titolato al mondo e lui deve essere orgoglioso, ma oltretutto deve essere consapevole che deve dimostrare di poterci stare in quel club. Concludo ricordandovi che la nostra trasmissione va in onda alla stessa ora ogni settimana, lo stesso giorno, la stessa ora, la stessa rete, bello, eh? Tutti convocati.